Come facciamo a passare da situazioni di questo tipo, cioè conflittuali, a situazioni di questo tipo, cioè armoniche, convergenti? Bene, è importante sicuramente osservare la nostra comunicazione non verbale. Come usiamo la voce, come usiamo il corpo, che tipo di movimenti facciamo, che tipo di ritmo. Questa auto-osservazione, questo monitoraggio ci consente di comprendere istante per istante che tipo di campo stiamo generando. Se le nostre parole vanno insieme al movimento del nostro corpo e a ciò che e agli altri comportamenti, allora stiamo generando un campo morfico. Altrimenti, ecco qua, abbiamo le parole e tutti gli aspetti fisici da un'altra parte, non siamo allineati, non siamo integri. Due parole sul pensiero. Cosa significa pensiero? Pensiero viene da soppesare. Soppesare a che scopo? Per mettere al posto giusto le cose. Per rispettare l'autonomia, cioè la realtà così com'è. Come dicevo l'altra volta, se metto un libro in libreria è ok, se metto un libro in una pasta asciutta no. Ecco. Ora, il pensiero, affinché sia davvero pensiero, ci consenta di mettere le cose nel loro posto, questo pensiero deve essere frutto di una visione a 360 gradi. Abbiamo bisogno di poter osservare la realtà così come è, senza giudicare. E questa, come dice la Krishnamurti, è la più alta forma di intelligenza. Altri la chiamano contemplazione. San Bonaventura distingueva tra l'occhio della carne, l'occhio dei sensi, l'occhio della ragione e l'occhio della contemplazione. E diceva che solo l'occhio della contemplazione è in grado di vedere la verità. Bene, noi non siamo allenati a utilizzare il pensiero in questo modo, ma in quest'altro, eccolo qua. Questa immagine indica la visione a tunnel. Qui dentro c'è un uomo, una persona, e la persona non vede più tutto ciò che c'è intorno, ma focalizza l'attenzione solo su un obiettivo. Quindi, ad esempio, mi focalizzo solo sulle parole, mi focalizzo solo sul ciò che devo fare fra poco e non mi accorgo di cosa sta accadendo a te. Ecco. Bene, chiamiamo questa visione a tunnel. È una visione che produce cancellazioni, distorsioni, quindi grave deformazione della realtà. Gran parte della nostra vita è guidata da visioni a tunnel. La nostra cultura ci ha allenato a non guardare le cose nel loro insieme, ma a guardarle separatamente, in modo frammentato, quindi a generare continue visioni a tunnel. E per definizione le visioni a tunnel generano campi dismorfici. Che cosa succede? Che il nostro pensiero non è più un pensiero vero. Un vero pensiero è un pensiero che sa soppesare, ma che per saper soppesare ha bisogno di osservare tutto ciò che c'è così come è. E quando siamo in questo pensiero siamo nella grande mente. No, noi normalmente intendiamo per pensiero il riflettere, portare attenzione a piccoli frammenti della realtà staccati da tutto il resto. Se facciamo così, la nostra mappa del mondo si impoverisce. Non abitiamo più nella grande mente, abitiamo nella piccola mente, sorretta ad una piccola visione, con una piccola intelligenza, in cui le relazioni che possiamo avere con noi stessi, con gli altri, con le nostre attività, sono piccole relazioni, e ne deriva quindi una piccola felicità, una grande sofferenza. Ecco qui, visione a tunnel, il campo percettivo diventa dismorfico. Generiamo delle brutte forme già nella percezione uditiva, visiva, cinestesica. Eccole qua, cattive forme già nella percezione. Quando percepiamo in modo dismorfico, la realtà, gli altri, ci fanno da specchio, perché noi sappiamo benissimo ciò che percepiamo nella realtà, l'80% è roba nostra. Ecco. Quindi la realtà ci restituisce indietro questa distorsione. Guardiamo queste due figure, questa e quest'altra. Immaginiamo che con la nostra respirazione ricalchiamo questa forma. Avremo una respirazione che fa... Immaginiamo poi che la nostra respirazione ricalchi questa forma. Questa forma richiama le onde del mare. Questa forma che cosa richiama? Richiama sentimenti, emozioni come la rabbia, l'irritazione, l'ansia. Ecco che quando parliamo di comunicazione non verbale, un posto centrale va riservato all'osservazione della nostra respirazione. Se la nostra respirazione è così, è dismorfica, crea brutte forme. Il primo passaggio, quindi, è passare a una respirazione di questo tipo. Ancora, le aspettative e i desideri focalizzano la nostra attenzione su dei dettagli, perdiamo la visione insieme, quindi generano campi dismorfici. Chi vive nella realtà del presente, totalmente aperto, è pieno, è ricco e non ha desideri, non ha aspettative. Può avere degli anediti, delle preferenze, ma non si attacca ai desideri, non si trasformano questi desideri in bisogni, perché non è guidato da visioni a tunnel. Okay. Adesso veniamo a cosa accade nella nostra società e cosa significa vivere oggi in questo mondo. Il campo sociale in cui viviamo è un campo profondamente dismorfico, lo vediamo nel modo in cui noi ci relazioniamo con la natura, la stiamo distruggendo il pianeta e non ci sono dubbi su questo. Vivere in un campo sociale dismorfico porta tutti noi a fare i conti con queste brutte forme, di cui ci sono gli aspetti visibili esteriormente, la bruttezza di certi luoghi costruiti dall'uomo è impareggiabile, e con la bruttezza, con lo scempio che c'è oggi, e dall'altra nasce la domanda, ma come la nostra anima vuole vivere dentro un mondo così? È chiaro che non potrà che sentire sofferenza e quindi non sentire insoddisfazione. Abbiamo detto prima però che l'insoddisfazione, se non si trasforma in lamentela, ma si trasforma in iniziativa, è la molla del cambiamento. La molla che è necessaria, la forza che si accumula nell'energia vitale per poter fare la rivoluzione che sia completa di tutto ciò che pensiamo, di come percepiamo il mondo, di come viviamo. Una rivoluzione che riguarda la nostra vita quotidiana, riguarda le nostre relazioni, riguarda il nostro modo di leggere, di osservare, di parlare. Soltanto se generiamo un campo di questo tipo, un campo morfico, un campo in cui produciamo buone forme, in cui le nostre parole sono sostenute da una comunicazione non verbale, del corpo, del movimento, dei gesti, che è coerente, soltanto se facciamo tutto questo, allora stiamo lavorando per cambiare tutto ciò che nel mondo non ci piace.